Letture di Radio 24. La premiata ditta Sorelle Ficcadenti, titolo del nuovo romanzo di Andrea Vitali, è una merceria inaugurata a Bellano il 1 dicembre del 1915 da due sorelle, Giovenca e Zemia Ficcadenti. Da quel momento la vita tranquilla e sonnecchiante del paesino affacciato sul lago di Como non sarà più la stessa. Tanto per cominciare, i titolari delle altre mercerie del paese non vedono di buon occhio l'arrivo di questa nuova ditta che si autodefinisce premiata. E poi ci sono le sorelle. Mentre Zemia è brutta, piccola e rachitica, Giovenca è alta, bionda e appariscente. E appena arrivata in paese, ha già conquistato il cuore di Geremia, un ragazzone di 32 anni che, senza nemmeno averla conosciuta, aveva dichiarato che se non fosse riuscito a sposarla, si sarebbe buttato nel lago. Ma già prima di arrivare a Bellano, la Giovenca aveva fatto perdere la testa a diversi uomini, tra i quali l'aspirante poeta Novennio Trionfa, che aveva incontrato durante una passeggiata pomeridiana. Era capitata davanti a un secolare ciliegio al quale il venticello sottraeva con delicatezza i bianchi fiori. Persa nella visione di quella pioggia nivea, non s'era accorta che alle sue spalle era sopraggiunto un giovanotto che l'aveva lungamente rimirata per poi farla sobbalzare declamando, anziché presentarsi con nome e cognome, un verso di poesia. E io penso all'arte, al giovenil mio fiore, penso alla mamma a due treccione bionde e la speranza mi tripudia in core. Giovenca, dopo un iniziale sconcerto, l'aveva guardato con occhi sgranati, lì per lì pensando che fosse un angelo. In realtà si trattava di Novennio Trionfa, un ventottenne scartato dall'esercito poiché aveva un solo coglione, pure atrofizzato, e che ancora prima era stato espulso dal seminario dopo un violento alterco con il proprio confessore e confidente spirituale a causa di Gabriele D'Annunzio, del quale il Novennio aveva letto una copia clandestina di Primo Vere e del Canto Novo, invaghendosene perdutamente. I due erano seduti uno accanto all'altra su un muretto a secco, lo sguardo perso su una campagna all'apice della sua magnifica maturità. Giovenca aveva ascoltato con vivace attenzione il resoconto di come il giovanotto aveva sacrificato la sua vocazione sull'altare della poesia, stupendosi di come quello che a lei sembrava un banale paesaggio di campagna, per lo più appesantito da un odore di strame che navigava nell'aria, potesse invece contenere tanta pura bellezza. Vedendone le gote arrossate, Novennio non aveva potuto contenere ben altra emozione, e quei versi per lungo tempo ripassati e tenuti in caldo erano sgorgati spontaneamente dalle sue labbra. In candor pario nude mostravansi, all'agitarti le forme nitide, i lombi ricurvi muoveansi, nella corsa con onda procace. Nel declamare, il Novennio s'era alzato in piedi, gesticolando verso la campagna a voce alta. Come un merlo nel pieno dell'estro, Novennio non udiva ormai più altro che la propria voce e per meglio godere l'estasi di quel momento, s'era girato verso la ragazza, aveva chiuso gli occhi e sparato i versi cui sin dall'inizio tendeva. E al fin ti giunsi. Vedendolo a occhi chiusi e pensando che quell'alto momento di poesia dovesse essere così goduto, anche Giovenca li aveva chiusi. Con trepida ansia, sulle ninfee ti stesi e era seguito un attimo di profondo silenzio cui anche la campagna si era alleata. Poi Novennio aveva gridato il resto. E un bacio col labbro convulso t'impressi. E gliel'aveva dato davvero. E poi ancora. Or sei mia, gridando. Sei mia. E urlando come un ossesso si era allontanato correndo, tanto che quando Giovenca aveva riaperto gli occhi, il Trionfa non era altro che un puntino nero dentro al coltivo di ravizzone, agitato come uno spaventapasseri sconvolto dal vento, di cui si sentiva però ancora l'eco di quel «sei mia» ripetuto all'infinito. Quella stessa notte, digiuna e insonne, Giovenca si era ritrovata a considerare l'ipotesi del convento quale unica soluzione. E ne avrebbe trovato conferma il giorno seguente, quando sarebbe ritornata al solito muretto per ammirare in malinconica solitudine il paesaggio del suo primo bacio, se improvvisamente l'angelo poeta non fosse ricomparso. Nottetempo il Trionfa s'era ripassato per bene il Canto Novo e tra i versi delle tre liriche comprese nel poemetto aveva scelto un allusivo passaggio dell'offerta votiva, riflettendo che se il giorno avanti la citazione di un bacio s'era tramutata in bacio vero, quel giorno ben altro avrebbe potuto ottenere. L'aveva presa un po' larga, ma al momento di declamare il cetriuolo sulla sua foglia, s'era messo di fronte alla ragazza e, invasato e infogliato, aveva declamato le due pere della poesia. Sugosa l'una che stingue la sete, aspra l'altra che cita al bevere il bevitore. Il risultato era stato che, suggendo l'uno e gicolando di piacere l'altra, sotto gli occhi di un villano dalla vista lunga, i due s'erano fidanzati e giurati amore eterno. Testimone aveva annunciato il trionfo, il dio Panna. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Andrea Vitali, premiata ditta Sorelle Ficcadenti, Rizzoli, 448 pagine, €18,50. Letture di Radio 24. Nell'aprile del 1994, il Ruanda venne sconvolto da una guerra civile che scatenò una violenza senza precedenti tra le due etnie, gli Hutu e i Tutsi. Ad accendere la miccia fu l'abbattimento dell'aereo sul quale volavano il presidente del Ruanda e quello del Burundi, reduci da un colloquio di pace al termine del quale gli Hutu avevano accettato di dividere il potere con i ribelli Tutsi. La reazione dei fondamentalisti Tutsi contro gli Hutu e i Tutsi più moderati diede origine ad uno dei più grandi eccidi della storia. Nel giro di 100 giorni morirono tra le 800.000 e il milione di persone. In mezzo a questa strage, compiuta nell'indifferenza della comunità internazionale, ci furono anche persone che non rimasero a guardare, veri e propri angeli che ebbero il coraggio di opporsi alla violenza, salvando molte vite umane. Tra questi, Mbaye Diagne, un militare che nel 1994 era stato inviato in Ruanda come osservatore per la MINUAR, la missione di assistenza dell'ONU. Quando nel paese si scatena l'inferno, Diagne inizia la sua battaglia personale per portare in salvo il maggior numero possibile di persone. A bordo del suo fuoristrada bianco con le insegne dell'ONU, carica 3-4 adulti e bambini alla volta e li nasconde sotto coperte e sacchi. Quando si imbatte nei checkpoint dei miliziani Hutu, si ferma. Si trova davanti miliziani insanguinati, spesso drogati e ubriachi, armati di macete, mazze chiodate, fucili, granate. Lui scende dalla jeep e li affronta da solo, disarmato. Scherza, offre sigarette, a volte soldi, e dopo una trattativa viene lasciato andare. Così, di posto di blocco in posto di blocco, viaggia in lungo e in largo per la capitale. Non si sa quante persone abbia salvato. Alcuni parlano di decine, altri di centinaia. Il capitano lascia la vita in Ruanda. Pochi giorni prima del suo rientro in Senegal, mentre è fermo in attesa che gli controllino i documenti, un colpo di mortaio cade poco lontano dal suo fuoristrada. Le schegge lo colpiscono alla nuca, uccidendolo sul colpo. Il generale Dallaire, comandante della MINUAR, lo ha definito il più coraggioso dei coraggiosi. Il governo ruandese lo ha riconosciuto tra i giusti che hanno rischiato la vita per salvare i civili dallo sterminio. Oggi la sua memoria è mantenuta viva dall'associazione Capitano Mbaye Diagne, che, nata nel 2010, organizza eventi culturali per ricordarne la figura. Il genocidio ruandese ha visto anche un italiano come protagonista positivo, Pierantonio Costa. Nato nel 1939 a Mestre, cresce in Congo dove suo padre si è trasferito. È stato console onorario in Ruanda dal 1988 al 2003, un'attività diplomatica che ha portato avanti parallelamente a quella di imprenditore nell'area dei Grandi Laghi. Il 6 aprile 1994 Costa è a Kigali, vede con i suoi occhi scatenarsi la violenza contro Tutsi e Hutu moderati. Come console si attiva immediatamente per mettere in salvo gli italiani e gli occidentali. Ma poi, anche per lui, il terreno inizia a scottare in Ruanda. Si trasferisce allora in Burundi, dove vive uno dei suoi fratelli. Da lì inizia a organizzare una serie di viaggi per mettere in salvo il maggior numero possibile di persone. Sono state tre le molle che mi hanno portato a organizzare i miei viaggi, osserva. Anzitutto ero il console d'Italia e in quanto tale avevo l'obbligo di mettere in salvo i miei connazionali. Per farlo ho attuato un piano di emergenza che avevo studiato da tempo con l'ambasciata di Kampala. Grazie a questo piano ho avuto la possibilità di mettere in salvo tutti gli italiani, ma anche molti occidentali. Quando mi recai a prelevare due missionari italiani che gestivano un orfanotrofio, vidi negli occhi dei bambini la paura. Questo mi spinse a fare qualcosa anche per i ruandesi. In collaborazione con la Croce Rossa e alcune ONG, Costa mette in salvo quasi 2.000 persone, tra esse 375 bambini. Oltre a rischiare la vita, impegna nella sua azione anche una parte consistente del suo patrimonio. Alla fine del genocidio avrà speso oltre 3 milioni di dollari. L'Italia e il Belgio lo hanno insignito della medaglia d'oro al valor civile. C'è il rischio che questo genocidio si ripeta? Difficile dirlo, conclude. I ruandesi si sono resi conto di quanto riprovevole sia stato quello che hanno fatto, anche se ci sono sempre in agguato politici che, per interessi personali, possono soffiare sul fuoco. Ciò che mi rende fiducioso è che il 50% della popolazione ruandese è troppo giovane per ricordarsi della strage. Ciò significa che nell'arco di una generazione la maggioranza dei ruandesi conosce quegli eventi solo per come gli sono stati raccontati. Questo è positivo se il genocidio verrà insegnato come un errore e la riconciliazione diventerà un modello per l'intero paese. Una strada, quest'ultima, sulla quale l'attuale governo si sta muovendo da anni. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Enrico Casale, Gli angeli del Ruanda, dal numero di aprile della rivista Popoli. Nello stesso numero della rivista troviamo anche un'altra testimonianza, quella di Marcel Uvienza, un gesuita del Ruanda scampato al genocidio, che racconta come grazie alla fede sia riuscito a perdonare quelli che avevano sterminato la sua famiglia. Il genocidio contro i Tutsi del 1994 per me non è stato solo una tragedia. Mi ha lasciato ferite che hanno richiesto tempo per rimarginarsi. Ricordo che dopo il luglio 94, quando il genocidio è terminato, era così difficile amare o vedere qualcosa di buono in un vicino di casa, soprattutto in quelli che avevano sterminato la mia famiglia. Alcuni dei nostri vicini hanno ucciso mio padre. Lo hanno sepolto e poi hanno riesumato il suo corpo per darlo in pasto agli uccelli e ai cani. Hanno gettato vivi i miei due fratelli e mia sorella in una fossa usata come latrina e li hanno lasciati morire lì dentro. Hanno portato mia nonna materna e alcuni cugini al grande fiume Niabarongo e li hanno gettati dentro facendoli annegare. Hanno violentato mia zia, contagiandola con l'AIDS. Hanno picchiato e ferito mia madre talmente forte che le conseguenze delle ferite l'hanno portata alla morte. Come potevo vivere e amare nuovamente queste persone? No, non ero pronto a farlo. Non ero pronto ad ascoltare quel Dio che ci chiede di amare i nostri nemici. Perché aveva lasciato uccidere le persone che amavo come tanti scarafaggi? Perché Nkurunziza e Kanani avevano ucciso i miei cari? Ricordo che mio padre aveva dato loro un appezzamento di terra e aveva pagato le tasse scolastiche dei loro figli. Eppure questo Dio non mi aveva abbandonato. Perché ero sopravvissuto? Perché ero ancora vivo? Ero meglio di quelli che sono stati uccisi? Perché gli autori del genocidio non hanno scoperto il grande alveare vuoto del signor Kabera, nel quale egli mi ha nascosto durante i massacri? Queste domande mi hanno turbato per anni. Non riuscivo a vedere un futuro senza mio padre, mia madre e i miei fratelli. Ero diventato un prigioniero di me stesso. Fino a quando ho letto il Salmo 116. Come posso ripagare il Signore per tutto il bene fatto per me? È lì che mi sono reso conto che mi è stato dato più tempo per vivere, un tempo che avrei dovuto utilizzare al meglio per Dio. Qualche anno dopo sono tornato al villaggio dove avevo vissuto con la mia famiglia e con mia sorpresa ho incontrato uno degli assassini dei miei fratelli e di mia sorella. Non potevo credere ai miei occhi. Quando mi ha visto, mi è venuto incontro. Ho pensato che stesse venendo per uccidere anche me. Invece, come in un film, si è inginocchiato davanti a me e mi ha chiesto perdono. Dopo qualche momento di confusione, in cui continuavo a chiedermi che cosa stava accadendo, con sensazioni contraddittorie che non riesco a descrivere. L'ho preso, l'ho abbracciato e gli ho detto: «Ti perdono. Il Signore è stato buono con me». Da quel momento mi sono sentito libero. Ho capito che il perdono guarisce più chi perdona di chi è stato perdonato. Le mie ferite hanno guarito gli altri. È così che ho capito che avrei dovuto donarmi al Signore come compagno di Gesù. Ed è come gesuita che scrivo. Mi sono sentito attratto dalla compagnia di Gesù, anzitutto per la profondità delle predicazioni e dei colloqui presso il Centro Christus, il centro spirituale dei gesuiti nella capitale Kigali. Ascoltandoli, mi apparivano diversi. Conoscevano le ferite del nostro mondo e mi hanno fatto comprendere come anche il Figlio di Dio fosse ferito. Apparivano così liberi, nonostante fossero anch'essi feriti. Come gesuita ho sperimentato la serenità dell'animo. Ho compreso come le mie ferite mi avvicinino a Dio. Il rendere la sua grazia evidente agli altri può aiutare chi è rimasto profondamente ferito nella lotta, perché tutti cerchiamo la riconciliazione e la salvezza. E questa era la testimonianza di padre Marcel Uvienza, scampato al genocidio in Ruanda. Ho scoperto il perdono, dal numero di aprile della rivista Popoli. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Da vecchi si desiderano gentilezze di cui nutrirsi e con cui rafforzarsi. Tuttavia, se mi nutro di false gentilezze, finisco per rigettarle. Nutritemi, per favore, con le vere gentilezze della cucina casalinga. Avete ascoltato la lettura di una poesia di Shibata Toyo, dal libro Rialzati e sorridi. Mondadori, 92 pagine, 9,90 euro.